Benvenuta all'Ottobrata Romana nel martedì autogestito da femministe e lesbiche. Ciao. Ciao. Ci racconti cosa è successo? Sì, insomma, da stamattina diciamo siamo entrati in un posto, l'abbiamo occupato, e questo posto ospiterà tutte le persone e anche parte delle iniziative, insomma, e delle discussioni di questa tre giorni. Una tre giorni nata in particolare in solidarietà ai compagni e le compagne inquisiti e arrestati per la giornata del 15 ottobre del 2011, di 2 anni fa. E abbiamo voluto costruire questa tre giorni appunto per portare solidarietà e parlare di questo processo, ma anche parlare di quello che è stato il 15 ottobre per noi e un po' anche per le persone che adesso si vedono inquisite, indagate, alcune già con condanne, in particolare anche per parlare del reato che comunque viene addossato su queste persone rispetto al 15 ottobre, che è quello di devastazione e saccheggio, quindi delle accuse molto pesanti, e tutte loro rischiano da veramente molti anni di carcere. Ci pareva il minimo iniziare a organizzarsi per contrastare queste accuse così pesanti e per appunto portare un minimo la nostra solidarietà a chi adesso si viene indagato per una giornata che tutti e tutte ci rivendichiamo. E in particolare da oggi appunto abbiamo occupato uno stabile qui al Pigneto in via Fortebraccio e invitiamo tutti e tutte quante a raggiungerci. Adesso sta iniziando la cena, poi ci sarà la prima assemblea, insomma, d'apertura, diciamo, di questa tre giorni iniziata oggi, anzi il giorno prima, e nei prossimi tre giorni appunto ci saranno varie iniziative, e a cominciare da domani in particolar modo volevamo invitare tutti e tutte quante alla cena che ci sarà domani sera, e a partire dalle 17 al Largo Breneste. Prima della cena ci sarà un momento di diciamo aggiornamento su come sta andando il processo, in particolare questo del 15 ottobre del 2011, e i momenti quindi di comunicazione riguardo alle prossime iniziative o anche riguardo a, appunto, agli inquisiti e gli arrestati, e dei banchetti controinformativi, e un murales verrà fatto sulla piazza. Quindi intanto volevamo invitare tutti quanti a partecipare a questa cena in strada, una cena gratuita, e insomma sarà un momento per stare per strada, incontrarsi oltre al posto, quindi che comunque abbiamo deciso di portare l'iniziativa un po' in tutta questa parte di Roma, diciamo. Sì, e poi insomma da questi microfoni lo ricorderemo, ci sono i presidi a Piazzale Clodio, insomma fino a poi alla manifestazione ovviamente sì. Del 19, e ovviamente sì, questa... 17, infatti ci stiamo organizzando per appunto partecipare al presidio che ci sarà a Piazzale Clodio, e pensiamo sia un buon momento appunto per portare solidarietà e magari farsi sentire anche da coloro che accusano i nostri compagni e le nostre compagne di un reato che assolutamente non riconosceremo mai, come tutti i reati, ma in questo caso ancor di più, perché vogliamo ancora una volta rimandare l'accusa al mittente, cioè che i devastatori e saccheggiatori sono proprio quei tribunali e quello Stato che li sta accusando in particolare. Senti, noi ti ringraziamo, invitiamo tutte a raggiungervi insomma in via Fortebraccio 45 e poi alle prossime iniziative che questa radio comunque seguirà. Grazie. Va bene, grazie mille. Ciao.